Significa cercare di decolonizzare lo sguardo di un'amministrazione, ragionare su come essere attivamente antirazzisti e promuovere quindi davvero condizioni di uguaglianza di opportunità per tutte e tutti i cittadini. E il nostro è appunto antirazzista e interculturale, abbiamo lavorato con questo anche con la delegata Rita Monticelli, che appunto ha la delega al dialogo interreligioso e interculturale, e siamo partner di questo progetto che si chiama Super Support Everyday Fight Against Racism insieme alle città di Torino e Reggio Emilia, e con loro abbiamo sviluppato i nostri piani di azione locale e lo abbiamo fatto coinvolgendo il terzo settore, la comunità locali, e questo è molto importante perché appunto prendere lo sguardo di chi attivamente è antirazzista e crea politiche e azioni antirazziste sul territorio ogni giorno e chi anche subisce discriminazioni può essere razzializzato, è molto importante per poter costruire delle azioni che siano conseguenti, che davvero rispondano all'obiettivo. Oltre al piano locale antirazzista abbiamo anche presentato il report del primo anno di attività dello SPAD, lo Sportello Antidiscriminazioni, che appunto in questo suo primo anno di attività aveva le discriminazioni su base razziale, etnica o religiosa. Ora lo estenderemo a tutti i fattori di discriminazione nei prossimi anni, però ci riporta un lavoro importante che contrasta i fenomeni di underreporting e underrecording che troppo spesso avvengono sui fenomeni delle discriminazioni, no? Quindi non conosciamo effettivamente i dati di quante discriminazioni ci sono sul territorio ed è un lavoro di emersione importante che va costruito in questo senso. E dall'analisi relativa a questo primo anno c'è qualcosa che vi ha sorpreso, vi ha colpito in maniera particolare, insomma, della fotografia della città? Diciamo che purtroppo ha confermato il fatto che le discriminazioni sono presenti in tutti i campi, dal lavoro, all'accesso al lavoro, fino all'accesso alla casa, nello sport, nel relazionarsi con i servizi pubblici, quindi ha semplicemente certificato il fatto che c'è un lavoro da fare profondo di decostruzione appunto delle discriminazioni. Discriminazioni e attivazione di processi che vadano a contrastare questa tendenza. Tornando al palo, invece, qual è stato il processo di costruzione, appunto, quale sarà la struttura del piano di azione locale? È stato un avviso pubblico che è partito nell'aprile scorso, aprile 2022, ha visto la risposta di più di 40 associazioni, comunità locali, e insieme a loro sono fatti degli eventi di comunità, degli incontri per far emergere i bisogni, le risposte che ci potevano essere, anche le proposte, e quindi si è arrivati alla costruzione di un piano molto corposo che avesse vari settori che vanno dalla cultura, le azioni che possiamo fare in ambito educativo, nelle scuole, fino all'accesso alla casa e quindi le clausole antidiscriminazione inserite poi nell'accordo metropolitano sui canoni concordati, lo sport usato come veicolo positivo di integrazione e di contrasto al razzismo. L'idea è stata proprio di utilizzare le competenze presenti sul territorio e direttamente provenienti anche dalla comunità che ha un background migratorio. Nella nostra città sono presenti 154 nazionalità e il 16% della nostra popolazione, e con loro appunto progettare un'azione che fosse effettivamente attivamente antirazzista da parte dell'amministrazione.